Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Elogio della piccola impresa. Iniziamo da questo libro questa sera. Buonasera a quanti si ascoltano e buonasera a Giulio Sapelli. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Giulio Sapelli insegna storia economica e economia politica all'Università Statale di Milano, molte pubblicazioni. A suo onore, diciamo, l'ultima di cui abbiamo parlato era un diario sudamericano, proprio su queste colonne, e editorialista del Corriere della Sera, e ha deciso di fare l'elogio della piccola impresa. Un elogio non solo economico, si dice che la piccola impresa è la spina dorsale dell'economia italiana, ma un elogio anche, direi, antropologico. È giusta questa lettura, Sapelli? Sì, perché la proposta che c'è in questo libro è di interpretare le vicende, che sono anche travagliate, come noti, difficili, della piccola e media impresa, ma soprattutto della piccola e piccolissima impresa, partendo da quello che è il suo connotato strutturale, definitorio, che è quello di essere un'impresa familiare e o un'impresa di persone. Quindi è un costrutto sociale, antropologico, cioè di relazioni tra persone prima che un'organizzazione economica. E qui risiede da un lato il mistero della sua sopravvivenza e la straordinaria forza che dimostra resistendo a imprevisti, crisi che spezzerebbero qualsiasi organizzazione economica tout court non fondato sulla resistenza della persona e della famiglia. Ecco, da una crisi come quella che stiamo vivendo, una crisi che mette sicuramente a dura prova tutte le imprese, ma in cui appunto la piccola impresa italiana, diciamo il modello italiano, un modello certamente spontaneo, non nato per volere di qualcuno, può essere visto come un elemento di forza, non come un elemento di debolezza. Sì, è un elemento di forza perché in primo luogo la piccola impresa, secondo me, rende manifesto un processo di mobilitazione sociale, forse è il più grande processo di mobilitazione sociale, tramite la creazione di piccole imprese familiari o tra persone, tra amici, tra operai che condividevano all'inizio un destino di licenziamento, poi si sono trovati assieme e hanno costruito la piccola impresa, e le classi più basse della società sono diventate protagonisti di questa nuova borghesia industriale diffusa che è la spina dorsale dell'Italia, fondamentalmente, ora che le grandi imprese stanno scomparendo. Di fatto l'Italia non è più, ahimè, un paese di grandi imprese, perché l'ideale sarebbe che avessimo tutto, avessimo le grandi imprese, le medie imprese e le piccole e le piccolissime imprese. Adesso stanno rimanendo solo le piccole e piccolissime imprese, quindi per questo elogio, perché esistono. Ecco, piccole imprese che non sono solo le imprese manifatturiere, le imprese artigiane, certo. Sono anche le imprese di servizio, sono anche le banche, non dimentichiamo che c'è una rete. Anche le banche cooperative nascono dalle piccole imprese, dai piccoli imprenditori, dai commercianti, e soprattutto nascono per loro, no? Perché il credito a queste piccole imprese viene da queste piccole banche radicate nel territorio, forse sì, meno capitalizzate delle grandi banche capitalistiche, ma quel poco denaro che hanno lo danno alle piccole imprese perché hanno un rapporto di fiducia comunitario con questi imprenditori. Ecco, un rapporto appunto di fiducia. Nelle ultime pagine lei scrive: possiamo parlare di piccola impresa sino a quando essa non perde il suo costrutto di comunità organica, dove si pensa e si fatica, si soffre, si gioisce, si vive nel lavoro gomito a gomito, faccia a faccia, famiglia a famiglia, strada per strada, del paesino, della cittadina. Non ci sono formule matematiche per definire e per capire queste imprese, ci sono le regole della vita in comunità, della cultura del lavoro e della fedeltà al patto che si instaura tra l'imprenditore e coloro con cui lavorano. Quindi niente lotta di classe, Sapelli. Beh no, la lotta di classe nella piccola impresa non può esistere, perché c'è, voglio dire, in larga misura, come lei sa bene, come sanno gli ascoltatori, i dipendenti sono spesso i familiari, e anche quando i dipendenti non sono i familiari c'è un'identità di fini, non solo di vita ma anche di fini, tra imprenditore e lavoratore. Voglio dire, abbiamo avuto degli eventi terribili, imprenditori che si sono uccisi, si sono suicidati, ahimè, si sono ahimè tolte la vita, quest'altro estremo e terribile, perché non riuscivano più a dare lavoro ai propri dipendenti, che erano poi uomini e donne, persone con i cui figli andavano insieme a messa, andavano insieme al laboratorio, giocavano nelle stesse strade, nelle stesse case. Ecco, quindi è un universo che dobbiamo capire non partendo dall'ideologia ma dall'esperienza di vita. Il libro si concluse con una bellissima poesia di Charles Péguy, inno alla speranza, in cui si dice: una piccola speranza che sembra così minuscola, questa piccola figlia dell'immortale speranza. È un'immortale speranza, è qualcosa, appunto, quello che muove l'uomo, che muove l'azione quotidiana, che muove anche nel fare le imprese, nonostante tutto. Sì, nonostante tutto, dico, la speranza è una virtù bambina, perché possiamo prenderla per mano e camminare con essa. Questo è il grande lascito di un grande cristiano come era Péguy, che ci parla ancora ad oggi. Quindi, concludendo, Giulio Sapelli, elogio della piccola impresa e anche un piccolo manuale per ritrovare questa speranza in questo mondo che sembra estremamente complesso dal profilo economico e anche dal profilo politico, ahimè, e anche dal profilo sociale. Tanti aspetti di un mondo complesso in cui però la persona può ritrovare il proprio centro, e la piccola impresa ne è la dimostrazione? Io penso di sì, le sono grato di aver sottolineato questi aspetti. Grazie mille, grazie a Giulio Sapelli, docente di storia economica e economia politica dell'Università Statale di Milano. Abbiamo parlato del suo libro, Elogio della piccola impresa, edito dal Mulino. Sono 120 pagine per 11 euro. Grazie Sapelli. Grazie a lei. Ed eccoci, dopo aver parlato con Giulio Sapelli della piccola impresa, restiamo nell'argomento dell'impresa parlando di risorse umane. Lo facciamo con Sergio Carbone. Buonasera, dottor Carbone. Buonasera a voi. Sergio Carbone è direttore generale di Project Land e ha curato con Angelo Pasqualera il libro Punto HR, analisi, riflessioni e visioni sulle persone e nelle organizzazioni. Punto HR sta per risorse umane, human resource. Ecco, perché questo libro e che cos'è Project Land, Sergio Carbone? Questo libro innanzitutto svolge, se vuole, una finalità di aggregazione, ma nello stesso tempo divulgativa, rispetto a quello che è divenuto ai giorni nostri il tema delle persone nelle organizzazioni. Di fatto il mondo del lavoro ha subito significative trasformazioni nel corso degli ultimi anni, e noi, che siamo una società di consulenza molto vicina alle aziende, abbiamo cercato di istituire una sorta di platea nella quale tutti gli addetti ai lavori, per addetti ai lavori intendo direttore del personale, responsabili di formazione, responsabili di academy di gruppo, si esprimono rispetto al tema delle persone nelle organizzazioni, nelle varie sfaccettature in cui questo tema può essere affrontato, quindi la formazione, la selezione, il benessere aziendale, la parte contrattuale, la parte retributiva, i percorsi di carriera, eccetera, eccetera, con la finalità soprattutto di creare anche una sorta di contaminazione tra settori, perché ci siamo resi conto, diciamo, essendo a contatto con le aziende, che di norma si entra in contatto tra colleghi, ma nell'ambito dello stesso settore. Di fatto invece sono poche le occasioni nelle quali, non lo so, un direttore personale di banca si possa confrontare con uno di una società telefonica piuttosto che con un'azienda manifatturiera. Ecco, allora, quindi cambia il mondo del lavoro, cambia l'organizzazione, in un certo senso in un mondo che sembra più specializzato, però servono delle competenze anche trasversali. E questo è un po' il motivo di fondo di una nuova formazione? Diciamo che poi ci sono nel mondo del lavoro ci sono anche settori che si distinguono per essere grandi consumatori di formazione, ma semplicemente perché operano nel mondo virtuale, e quindi diciamo il cambiamento lo si fa intervenendo costantemente sull'aggiornamento delle competenze delle persone. Noi su questo abbiamo per esempio una grossa esperienza a contatto col settore bancario, con quello assicurativo, che è un po' per questioni legate alle normative, un po' anche per questioni legate proprio all'evoluzione del business, sono dei forti consumatori di formazione, e soprattutto in questo periodo lo sono anche in virtù dei processi di riorganizzazione, di riqualificazione e di riconversione che ovviamente la crisi ha posto anche a soggetti magari come questi, che in passato sono stati, se vuole, un po' più difesi, un po' più al riparo dalle crisi. Ecco, quindi si può dire in un certo senso che la specializzazione va bene, ma ci vuole una specializzazione che guardi alla persona nella sua complessità anche all'interno delle imprese, quindi una maggiore attenzione ai valori della persona oltre che ai valori, appunto, della professione. Assolutamente sì, il discorso va fatto a tutto tondo, come giustamente osserva lei, perché da un lato c'è la crescita professionale, ma che oggi implica il fatto che le persone non solo abbiano delle competenze, ma abbiano anche la capacità di esprimerle con livelli di autonomia sempre maggiore. dall'altro lato c'è un tema invece legato a tutto il contesto aziendale, quindi alla parte, diciamo, che attraverso i contratti collettivi nazionali di lavoro o attraverso i contratti aziendali fa da corollario alla vita della persona all'interno dell'organizzazione. Ecco, proprio questo libro, ricordo.hr, raccoglie tutta una serie di interventi che guardano nelle diverse prospettive il sistema del lavoro, l'organizzazione delle imprese, come stanno cambiando le imprese e quindi come sta cambiando anche la formazione, l'apprendimento, la capacità appunto di adeguarsi a un mondo che cambia continuamente, non ha dei punti fermi. Grazie a Sergio Carbone che ha curato insieme ad Angelo Pasquarella questo libro, lo ricordo.hr, analisi, riflessioni e visioni sulle persone nelle organizzazioni, edito da Guerini e Associati, sono 245 pagine per 23 euro. Nella prima parte del programma, vi ricordo, abbiamo parlato con Giulio Sapelli, Elogio della piccola impresa, un libro edito dal Mulino, 120 pagine per 11 euro. Di questi libri abbiamo parlato oggi, ma chi vuole riascoltare le puntate di Economia in Pagina può collegarsi al sito www.radio24.it, così come per gli altri programmi di Radio 24. Grazie anche a Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.